Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Invieremo rinforzi, annuncia il ministro La Russa dopo l'attentato di ieri in Afghanistan. Giovedì i funerali dei due alpini, oggi un altro attentato. Liste che scottano, la Francia consegna all'Italia 7.000 nomi di evasori fiscali nelle mani della Guardia di Finanza che indaga sugli appalti, anche la lista dei lavori di anemone. In Thailandia guerra civile, racconta Radio 24 il fotoreporter italiano ferito ieri a Bangkok. Mourinho al Real Madrid, secondo la stampa spagnola ci sarebbe già l'accordo verbale. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano l'informativa alla Camera del ministro La Russa sull'attentato in Afghanistan, in cui come sapete purtroppo sono morti ieri due alpini, ce ne riferisce Elisabetta Fiorito. L'Italia rafforza il contingente in Afghanistan, lo annuncia il ministro della difesa Ignazio La Russa. Entro la fine dell'anno la presenza dei nostri militari sarà di 4.000 uomini. La Russa è intervenuto nell'aula di Montecitorio dopo l'attentato di ieri in cui sono stati uccisi due nostri soldati e ha ribadito l'impegno dell'Italia nel paese. Sentiamo. Agli infami vigliacchi aggressori che hanno anche stavolta colpito nella maniera più subdola, dico che rimane più che mai saldo l'intendimento del governo, del Parlamento, dell'Italia, di mantenere l'impegno per la stabilizzazione dell'Afghanistan. E ribadisco pertanto che anche questo drammatico episodio avrà l'effetto di un rafforzamento del nostro convincimento della bontà della presenza italiana in Afghanistan e del nostro apporto alla missione internazionale. In un'aula semivuota, solo un centinaio di deputati, per la maggior parte di opposizione, il ministro della difesa ribadisce che non c'è una strategia mirata contro gli italiani. Ieri infatti ci sono stati altri morti e ciò dimostra che non c'è pericolo per una componente specifica, ma per tutto il contingente internazionale. Polemica invece di Emma Bonino, radicali PD, per la quale solo ora il governo ammette che i blindati Lince non sono sicuri e invierà mezzi più sicuri. Il rientro dell'esame del sergente Massimiliano Ramadù e del caporal maggiore Luigi Pascazzo è previsto per domani, giovedì, i funerali. E per il momento qui da Montecitorio è tutto per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Intanto sono stati portati via dall'Afghanistan gli altri due militari italiani feriti. Il caporale Buonacucina è stata trasferita all'ospedale americano di Ramstein in Germania. Il caporal maggiore Scirea a Roma invece all'ospedale del Celio. Intanto in Afghanistan c'è stato un altro sanguinario attentato. Laura Bettini. Buongiorno, sì, è accaduto a Kabul. Un kamikaze alla guida di un'autobomba si è fatto esplodere contro un convoglio americano in una zona centrale della città, quella in cui si trovano il Parlamento e alcuni edifici governativi. Sei militari stranieri sono morti, sarebbero canadesi e statunitensi, ma mancano conferme. Numerose sono le vittime civili, una dozzina i morti, decine i feriti, in gran parte passeggeri di un autobus che era in transito. Nessun militare italiano è stato coinvolto, specifica lo Stato Maggiore della Difesa e ricorda che una quota del nostro contingente in Afghanistan è infatti schierata nella capitale afghana. La rivendicazione è stata immediata ed è arrivata dai talebani. Secondo l'ambasciatore italiano a Kabul, Claudio Glenzer, intervistato da Sky TG24, la recrudescenza degli attacchi dei talebani ha come cause dirette l'offensiva in Helmand e quella che si prepara contro Kandahar. È tutto. Grazie a Laura Bettini. E nel nostro sondaggio di oggi vi chiedevamo se secondo voi è necessario mantenere la presenza militare in Afghanistan. Bene, vi siete divisi, hanno prevalso di pochissimo e sì con il 51%. E prima di andare alla pagina economica, un'ultima notizia dall'estero, in particolare dallo Yemen. In un blitz delle forze di sicurezza saudite sono state liberate le due bambine tedesche rapite con un gruppo di occidentali nel giugno 2009. Un terzo fratellino invece sarebbe morto, secondo quanto riferito da un portavoce della famiglia. Ieri l'Eurogruppo, come vi abbiamo riferito nei GR24, oggi l'Ecofin in soccorso dell'euro. Sergio Nava. Buongiorno, diciamo subito che c'è l'accordo all'Ecofin sulla stretta ai fondi di investimento alternativi come gli hedge funds o i private equity. È stato dunque un vero e proprio battesimo del fuoco per il neocanceliere allo scacchiere britannico George Osborne, giunto a Bruxelles per ribadire tutte le perplessità di Londra al riguardo. Ma Osborne ha dovuto affrontare il fuoco di sbarramento degli altri paesi dell'Unione, che hanno stabilito di dare al Consiglio europeo il mandato per negoziare con l'Europarlamento la bozza di direttiva con la quale si intendono armonizzare le regole comunitarie sui fondi speculativi, proposta che, lo ricordiamo, obbligherebbe l'80% dei fondi speculativi con base a Londra a ottenere l'approvazione per operare in ciascuno degli altri 26 paesi europei, a meno che non si ottenga nel frattempo l'accordo su un vero e proprio passaporto comunitario degli hedge funds. Questa mattina la Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento europeo aveva approvato la propria proposta di direttiva per regolamentare i fondi di investimento alternativi, prendendo particolarmente di mira quelli speculativi. L'unità europea di oggi stride con il fallimento registrato stanotte all'Eurogruppo, lo ricordavate poco fa, dove i 16 paesi dell'Eurozona non sono riusciti ad accordarsi sul meccanismo di funzionamento del maxi fondo europeo per il salvataggio dei paesi membri in difficoltà come la Grecia. È tutto. Grazie a Sergio Nava. Intanto in Italia si fanno i conti in vista della manovra correttiva. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Il provvedimento allo studio dei tecnici di Via 20 Settembre arriverà tra fine maggio ed inizio giugno. La maggior parte dei capitoli è ancora da scrivere. L'unica certezza è l'impatto finale della manovra, che oscillerà tra i 25 e i 28 miliardi di euro per il 2011-2012. Inevitabilmente si agirà attraverso risparmi di spesa e tagli. Di fatto vi sarà una stretta su più fronti, fra cui quello del lavoro e della previdenza. Il comparto pubblico resta il maggiore indiziato a subire una revisione dei capitoli di bilancio. Non sul fronte degli stipendi, ha ribadito però il ministro Brunetti. Altro argomento, la riduzione delle indennità. Parlamentari e manager pubblici potrebbero avere un taglio del 5%. La Lega insiste per interventi anche sugli stipendi dei magistrati. No a misure indiscriminate, commenta tuttavia l'opposizione. Il fronte delle pensioni infine potrebbe essere coinvolto dalla manovra economica. Non ci saranno tagli, dice oggi dall'INPDAP il presidente Crescimbeni. Certo, spiega, lo scorrimento delle finestre per le pensioni di anzianità porterebbe impatti positivi già quest'anno. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie anche a te, Vincenzo, ed ora parliamo di liste. Fra un attimo della famosa lista Anemone relativa ai lavori eseguiti dall'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sugli appalti per i grandi eventi. Prima però l'altrettanto famosa lista in arrivo dalla Francia con i nomi degli evasori fiscali italiani. Raffaella Calandra. Sì, come dicevi, una nuova lista scuote la penisola, passando attraverso gli uffici giudiziari. Ha varcato i confini dell'Italia l'elenco dei presunti evasori fiscali con conti nella banca svizzera HSBC. Oltre 7.000 nomi di italiani sono stati individuati dall'elenco complessivo ben più ampio di circa 120.000 nominativi sottratto alla banca dati dell'istituto dall'ex dipendente Hervé Falciani, cittadino italo-francese. Sono dati informatici su conti di italiani in Svizzera fino al 2006-2007, precisa il procuratore di Nizza Eric de Montgolfier, titolare delle indagini Oltralpe per il gruppo di 8.000 francesi. In Italia invece è stato il procuratore di Torino Giancarlo Caselli il primo ad interessarsi di questo elenco e a chiederne i dati, ed è per questo, conferma il magistrato francese, che questi dati finiranno innanzitutto sotto la mole, i dati appunto sui presunti evasori. Oltre ad eventuali profili penali, questa nuova lista sarà di sicuro sotto la lente degli ispettori dell'Agenzia delle Entrate per verificare se possa dar luogo a successive verifiche fiscali, ed è stato lo stesso ex dipendente della banca ad aiutare nella decriptazione dei codici che hanno permesso di enucleare anche i dati dei correntisti inglesi, americani e tedeschi. Ovviamente poi, una volta in Italia, l'elenco dei nomi dovrebbe essere suddiviso a seconda delle varie procure competenti. Per ora è tutto. Grazie a Raffaella Calandra, ed ora invece la lista Anemone. Non sono preoccupato, la magistratura faccia il suo dovere. Il ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, commenta così gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sugli appalti per i grandi eventi che riguardano il suo dicastero. Ieri a Firenze gli inquirenti hanno sentito il capo di gabinetto del ministro, Claudio Iafolla, ed il responsabile dell'ufficio legislativo, Gerardo Mastrandrea. A motivo dell'interrogatorio, i criteri della nomina di Fabio De Santis, uno dei principali indagati, a provveditore dei lavori pubblici della Toscana. Nel pomeriggio è stato sentito come e persona informata dei fatti, anche Antonio Di Pietro, il leader dell'Italia dei Valori, avrebbe chiarito i suoi rapporti con alcuni degli indagati, in particolare Balducci e Rinaldi, ai tempi in cui l'ex PM era ministro delle infrastrutture. Oggi a Perugia gli inquirenti dovrebbero sentire di nuovo anche Angelo Zampolini, l'architetto le cui rivelazioni hanno portato Claudio Scajola a dimettersi da ministro. La Guardia di Finanza intanto ha fatto sapere di aver acquisito per accertamenti fiscali l'ormai nota lista con i lavori eseguiti dalla società del costruttore romano Diego Anemone. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo al calcio. Secondo un quotidiano sportivo spagnolo ci sarebbe già un'intesa verbale fra Mourinho e Real Madrid. All'accordo mancherebbe solo la firma per renderlo ufficiale. Questo non dovrebbe avvenire prima della finale di Champions di sabato. Mourinho chiederebbe un contratto di 4 anni. Il presidente dell'Inter Moratti avrebbe invece offerto al portoghese un aumento di stipendio da 10 a 12 milioni di euro. Offerta che sarebbe stata respinta da Mourinho perché non è una questione di soldi. La vittoria più attesa che potrebbe sancire l'addio più amaro. È il grande paradosso della trionfale stagione interista. Incamerata la Coppa Italia, conquistato il 5º scudetto consecutivo, Massimo Moratti e José Mourinho cercano sabato sul palcoscenico del Bernabéu la tripletta da leggenda, con quella Champions che manca dalla bacheca nera-azzurra da 45 anni. Poi però lo Special One potrebbe, metaforicamente, restare proprio a Madrid per riportare sul tetto d'Europa il Real Galactico di Florentino Pérez. Ipotesi dolorosa, ma per la quale Massimo Moratti non vuole essere impreparato. E allora in cima alla lista dei sostituti c'è Fabio Capello, l'ex tecnico di Milan, Roma e Juve, ora CT dell'Inghilterra, considerato l'unico, per qualità tecniche e abilità mediatica, capace di prendere il posto del portoghese. Intanto il tecnico dell'Inter non avrebbe rinnovato l'iscrizione dei suoi due figli alla scuola americana nel Canton Ticino. Come dire che gli indizi della separazione si moltiplicano. Sabato notte Mourinho e Moratti sveleranno le loro carte, magari abbracciati alla coppa dalle grandi orecchie. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato dell'informativa del ministro La Russa alla Camera. Invieremo rinforzi, ha detto il ministro della Difesa. Giovedì i funerali dei due alpini morti ieri in Afghanistan. Oggi, vicino Kabul, un nuovo attacco. E poi ancora abbiamo parlato della vicenda di Mourinho al Real Madrid. Secondo la stampa spagnola ci sarebbe già un accordo verbale. E ripartiamo ora dal racconto del fotoreporter italiano Flavio Signore, che dice: sono vivo per miracolo. Sentiamolo al microfono di Roberto Bonaldi. Domenica sono stato colpito per fortuna di striscio da una pallottola mentre stavo facendo fotografie e stavo vedendo la situazione dove stavano avvenendo gli scontri tra l'esercito thailandese e le forze di quelle che ormai già tutti chiamano come le camicie rosse. Ho visto che stavo facendo fotografie, riprese di video, era un punto di scontri, però nei momenti anteriori ai fatti e agli spari che sono avvenuti non sembrava particolarmente un posto conflittivo, fino al momento che sono cominciati arrivare questi spari un po' da tutti quanti i lati. E adesso come sta? Adesso sto molto meglio, già sono passati 2 giorni e posso già camminare con dolore, però insomma senza problemi. Domani mi ricuciono la ferita, la disinfettano. La previsione è che già domani o al massimo dopodomani, se necessario un altro giorno di osservazione, già mi rimettono dall'ospedale. La vita a Bangkok in questo periodo com'è? Si respira un'atmosfera di emergenza molto forte, nel senso, ecco, ricorda un poco le immagini che già ho visto in altre situazioni di conflitto, di guerra aperta, pur non essendo né una guerra né un conflitto. No, è un conflitto potenziale di guerra civile, o almeno qualcuno dice questo, ma speriamo che veramente Thailandia e thailandesi siano capaci, con l'aiuto anche di tutti gli organi internazionali, di evitare che il conflitto si prolunghi di più. Però in questi giorni le immagini che si vedono, soprattutto nella parte centrale di Bangkok, in quello che una volta era il distretto finanziario che funzionava 24 ore al giorno e dove potevi mangiare per la strada e i negozi erano sempre aperti, e ora sembra una città fantasma con le barricate in mezzo alla strada e il filo spinato, e insomma queste sono le immagini che si vedono. Questo è il racconto del fotoreporter italiano Flavio Signore, che appunto ci ha raccontato di cosa sta accadendo a Bangkok e dintorni. Ora invece veniamo più vicini a noi, il serial killer che avrebbe ucciso una decina di persone a Roma e dintorni. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno dal Policlinico Gemelli di Roma. È qui che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe lavorato come infermiere il probabile serial killer responsabile della morte di almeno 7 anziani, forse 10 in 2 anni. Una sorta di angelo della morte che, secondo gli investigatori, avrebbe agito seguendo impulsi di varia natura. In alcuni casi potrebbe aver ucciso pensando di porre fine alla sofferenza della vittima. Le morti, infatti, sono tutte apparentemente per cause naturali, nessun segno di violenza, morti che sarebbero avvenute anche in altre strutture sanitarie della capitale. Ma per ora qui al Gemelli regna la più totale incredulità di medici e infermieri. Sentiamo le loro voci. Che possa succedere mi sembra assurdo, a meno che veramente qualcuno dia di matto. Se noi sono solo dicerie. Io sto da 30 anni, ho perso mio marito 1 mese e mezzo fa e l'ho visto curato in maniera eccellente, non perché fossi una collega, ho capito? Per cui a me sembra proprio fuori del mondo. Non è possibile una cosa del genere, perché ci sono dei controlli e da parte del personale infermieristico stesso e da parte della direzione sanitaria. Ma gli investigatori della Cold Case, una sezione speciale della squadra mobile capitolina che si occupa di casi irrisolti, avrebbero trovato un filo rosso tra i vari decessi, tutti riconducibili alla stessa persona. Il serial killer si troverebbe comunque già in carcere, accusato di un altro delitto non collegato a questi. E da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. Pensione anticipata a 65 anni anziché gli attuali 72 per i baroni universitari, così da far posto ai giovani ricercatori. È la proposta del Partito Democratico. L'idea, seppur con qualche distinguo, non dispiace al rettore del Politecnico di Milano Guido Baglio, che di anni ne ha 70. È un problema da studiare e non da fare soltanto con una regoletta, ma di concedere poi la possibilità di tenersi le persone valide e le persone che sono ancora in grado di dare tanto. Naturalmente del tutto d'accordo con la proposta invece Oscar Ascenzi, del Coordinamento Nazionale Ricercatori Universitari, rappresentanza critica su alcuni punti della riforma dell'Università Gelmini, e in questi giorni attiva nella protesta con l'occupazione di vari rettorati. Mandare i professori in pensione a 65 anni, diciamo, può avere alcun senso in futuro, quando le persone avranno preso però servizio in realtà a un'età molto più bassa. Cioè oggi la situazione è che molte persone hanno preso servizio come ricercatori a un'età vicina ai 40 anni, cioè hanno cominciato a pagare contributi. Mandarli in pensione in futuro a 65 anni vuol dire mandarli in pensione con 25 anni di contributi. Questa sembra più una mossa per mandare in pensione subito un po' di gente, ma in futuro insomma potrebbe essere un problema, ecco. Si rischia di risolvere un problema adesso e di crearne uno fra un po' di anni. Le interviste erano di Matteo Finco. Da aprile 2008, data d'inizio della crisi economica, a fine 2009 sono stati persi 659.000 posti di lavoro. Lo rileva il 7° rapporto sull'industria realizzato dalla CISL. Il settore manifatturiero ha pagato il prezzo più duro. Nel periodo considerato, più della metà dei posti di lavoro si è persa proprio in questo settore. Il comparto delle costruzioni ha invece sostanzialmente mantenuto i livelli occupazionali. Fatto dopo 7 mesi per l'Alcoa. Nella notte è stato firmato l'accordo sul piano industriale che salva la produzione di alluminio in Sardegna. Riapriranno i 2 stabilimenti di Portovesme nel Cagliaritano e di Fusina nel Veneziano. Ma se i vertici sindacali parlano di accordo storico, fra i lavoratori resta qualche perplessità. Bruno Usai, rappresentante sindacale dello stabilimento sardo, parla così al microfono di Anna Migliorati. Di fronte a una prospettiva di qualche mese fa si parlava di chiusura, adesso siamo praticamente aperti, è normale che siamo contenti, però adesso se leggiamo tra le righe non è un accordo che ci può permettere di pensare a un futuro oltre 3 anni, lì è il governo che deve continuare a lavorare perché ci siano le prospettive anche per un proseguo dell'attività produttiva di alluminio in Italia. Lo sappiamo, le tariffe del costo energetico in Italia è alta. È finita qui la battaglia o no? È una bella domanda. Valuteremo passo passo quello che l'azienda compierà da qui a 3 anni. Noi rimaniamo aggrappati al nostro posto di lavoro perché sapete le problematiche che abbiamo in Sardegna, ma specificatamente nel nostro territorio, non ci permettono che una produzione così importante come quella dell'alluminio possa andare fuori dal nostro paese. Speriamo di aver avuto ragione con la nostra lotta. Giunti all'83° giorno di occupazione dell'ex isola carcere dell'Asinara, trasformata nell'isola dei cassi integrati, gli operai della Vinils sono invece decisi a non cedere nonostante l'ennesima delusione. È stato infatti annullato l'incontro previsto per oggi al Ministero dello Sviluppo Economico. mese di carcere. Questa è la richiesta di un PM milanese per Claudio Troppo, l'organizzatore dei concerti italiani niente po' di meno che di Bruce Springsteen. 2 anni fa un concerto del boss infatti finì con 22 minuti di ritardo rispetto ai termini previsti. Il promoter è accusato quindi di disturbo della quiete pubblica. Sentiamo Trotta al microfono di Marta Cagnola. 48 ore prima del concerto le autorità preposte hanno deciso che sarebbe stato il blocco del traffico come per le partite di calcio e anche la chiusura dei parcheggi vicini allo stadio. Quindi con successo che il giorno stesso, quando doveva iniziare i concerti, in realtà c'erano ampi buchi perché la gente non era ancora arrivata. Quindi il concerto è cominciato con 20-22 minuti di ritardo ed è finito conseguentemente con 22 minuti di ritardo. Quando io mi sono accorto che si stava andando oltre l'orario, ho detto alle persone vicino a Springsteen, alle persone a cui dovevo dirlo: guardate che qui stiamo andando oltre l'orario, non deve succedere, ma è altrettanto evidente che Springsteen è andato avanti lo stesso. Io credo che sia normale che si paghino delle multe, ma che questo invece dia adito a un PM di chiedere una richiesta di arresto di un mese perché non ho staccato la spina, ma insomma su questo probabilmente abbiamo qualche opinione un po' diversa. Insomma, mi sembra una questione più grossa della mia persona, ecco. Mi chiedo se anche gli artisti ormai abbiano perso un po' la voglia di venire a San Siro. Madonna ha fatto delle dichiarazioni dopo aver suonato a San Siro non proprio molto felici rispetto ai limiti di decibel. Paul McCartney ha deciso di non suonare a San Siro preventivamente. Io insieme agli AC/DC abbiamo deciso di non suonare a San Siro quest'anno e di suonare domani a Udine, dove 47.000 persone gaudenti si divertiranno. Con quei decibel francamente non si rispetta l'artista, non si rispetta la musica, non si rispetta la città. E così addio boss. È tutto per questo GR24, il prossimo alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.